Tutti convocati Magazine di Carlo Genta. Buongiorno e buon sabato a tutti. Franco Piantanini, autore di questo programma, come sempre Roberto Scaltritti in regia, per ripercorrere la settimana di sport che abbiamo vissuto. Perdonatemi, ma io inizio dalla parte più divertente della settimana, cioè De Laurentiis, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che ha festeggiato il secondo posto e l'ingresso in Champions League e finalmente è tornato in città, nella città del calcio, dopo una stagione di dichiarazioni per lui un po' sottotono, edulcorate, politically correct. Ebbene, finalmente abbiamo ritrovato Aurelio De Laurentiis. Cacci sordi, anch'io dico al Tottenham, ma cacci sordi, cacci sordi. Seems just like yesterday when we were standing here. A Yankees hat upon my head and your voice in my ear. You talked about the future and all the things we do. Cacci sordi, anch'io dico al Tottenham, ma cacci sordi, cacci sordi. Remember when I sold my car to board that train? You said you were sure that I would not come back again. Guys, he's back. He's back in town. Finalmente, he is back in town dopo lunga assenza. Stiamo parlando naturalmente del presidentissimo, di lui, Aurelio De Laurentiis. Ieri sera cena del Napoli per festeggiare il campionato meraviglioso, l'ingresso in Champions League. Andate a vedervi le fotografie dei ravioli a forma di Champions, per favore. He's back. Ci è mancato un sacco. Sentiamolo allora. Cavani. De Laurentiis. Ma lei i 63 milioni solo vuole contanti oppure eventualmente un giocatore che poi... Se è un giocatore che Gagliardo, ma Gagliardo. Se è una pedenzia sta prendendo in quel posto. Okay. E una. Allora, chi ama Napoli e chi non ce l'ha nel cuore? Ci sono certi giocatori che sono giocatori del Napoli, perché amano Napoli e quindi ce l'hanno nel DNA. E allora tu te li tieni fino alla fine. Poi ci sono dei giocatori che non gliene frega un cazzo. E che quindi, quando, come fa il Bayern Monaco? Il Bayern Monaco che fa? Si viene 3 anni, 4 anni e poi via. And two. Allora... De Laurentiis ricorda anche come quando prese il Napoli, perché è bene ricordarlo ogni volta, non è che il Napoli fosse in cima al mondo, anzi. Il discorso è quello. Tu sei arrivato secondo, figlio mio, ma quante volte nella vita? Però lei... No, dal 1929, Ma stai buono, lo so. Aspetta un attimo, lo scusate. Tu fino a 9 anni fa era fallita la società. E tre. Allora... Sentiamo come devono essere i giocatori del Napoli futuro. Quest'anno cerchiamo di vedere come si può fare la semina giusta per fare i prossimi 5 anni da gran cazzuti. Sai che vuol dire cazzuto, termine cazzuto, certo, no? Certo, certo. Una volta Peppino Di Capri si è offeso e dice ma come hai detto che sei cazzuto? Beh, mi dovresti baciare perché il cazzuto vuol dire che c'è il voglio di così. Allora... Giusto per ricordare esattamente dove era il Napoli quando Aurelio De Laurentiis lo prese, ecco che ci pensa lui. Pensa che noi, la nostra squadra, quando noi siamo arrivati in Serie A, che non eravamo in nessuna classifica, a un certo punto è apparsa la classifica, eravamo al 523esimo posto. Ho detto 523, Buciolismo, aiutami te, porta fortuna. Bene, poi siamo arrivati al 40esimo. Oggi siamo la 13esima squadra del mondo. Non abbiamo una lira, un euro di debito. He's back in town, Aurelio De Laurentiis. Dopo molti mesi di dichiarazioni edulcorate, di dichiarazioni politicamente corrette, per una sera finalmente si lascia andare e chiude così. Il discorso che noi tifosi napoletani, arrivato al secondo posto, come secondo me... preoccupa solo una cosa, no? Di Cavani o di Mazzara. Ti devi preoccupare che il signor Aurelio De Laurentiis campo centrale non si rompi i coglioni e non se ne vada. E la paura mia è la paura mia, tanto è vero, io. Ma tu ti preoccupa perché io amo Napoli. Napoli. Ma io... Grande presidente! Beh, se Aurelio De Laurentiis è stato così, questa settimana invece devo dire che un po' sottotono sono stati i nostri ascoltatori, un po' al Valium, un po' soporiferi. Ragazzi, lunedì siamo qui, dalle 14 come sempre in diretta con tutti i convocati. Non siamo riusciti, nonostante tutte le buone intenzioni, a compilare un podio di 3 ascoltatori, soltanto 2, e sono questi. Italo Como, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo informare che ci sono delle banconote false in giro. Mm. Sono da 31 euro, sì. E le stanno spacciando gli juventini. Giampaolo, Reggio Emilia. Modena. È che sì. Mi sbagliano tutte le scritte. Salve, ciao. Ciao. Senti, io ho un'altra domanda oltre a quella dei tifosi, degli striscioni per Moratti e la dirigenza. Sì. E questa, come mai noi schieriamo il grande Tommasino Rocchi in attacco, che praticamente gli unici che mette in difficoltà sono i telecronisti perché lo scambiano per Cambiasso. E invece abbiamo destro alla Roma e Balotelli al Milan, che erano i nostri fiori all'occhiello, no? Come sì. Abbiamo fatto arrivare in questa situazione all'ultima giornata? Secondo te? È una domanda, io faccio le domande. Beh, devo dire che questa di Tommasino Rocchi, che è l'unico che mette in difficoltà i telecronisti perché lo scavino per Cambiasso, non era male. Tutti convocati Magazine. Allora, domenica scorsa Trento ha vinto lo scudetto della pallavolo, come ormai saprete. Il giorno dopo mi arriva un messaggio: se non parli di Sentini ti rigo la macchina. Di questo non me ne importa nulla. Noi invece abbiamo parlato con Jack Sentini, che ci ha raccontato quella che è, secondo me, ma io credo in valore assoluto, perché vi sfido a trovarne una migliore, la più bella storia sportiva di questa annata, di questa stagione in Italia. Sentiamola. Voi sapete dov'ero un anno fa, che io credevo che non sarei neanche riuscito a sopravvivere. Adesso sono campione d'Italia, io non lo so, io non voglio sembrare melodrammatico, però lo dico a tutte le persone che mai si troveranno a essere ammalate di cancro o hanno il cancro adesso. Non perdete mai la speranza, perché il sole può tornare a splendere, ragazzi, perché io l'ho visto e io ce l'ho fatta, e non sono nessuno, sono una persona normale. Splende un grande sole su di me. That's the sound of sunshine coming down. Allora, ieri un ascoltatore mi ha mandato un messaggio al 349-238-6666 scrivendo: se oggi non parli di Jack Sentini ti rigo la macchina. Ora, a me della macchina mi importa nulla, come delle minacce, però non parlo di Jack Sentini, ma parlo con Jack Sentini. Ciao. Ciao, buongiorno. Come stai? Molto bene, grazie per l'invito. No, grazie a te per esserci. Grazie a te per esserci e per insomma, la storia più bella che quest'anno lo sport italiano ha scritto. Tu dici: non voglio essere melodrammatico, non lo sono neanch'io. Anzi, qualcuno mi dice che sono cinico. Però, Jack, questa storia, e usiamo le parole che servono, 2 anni fa dove eri? 2 anni fa ero in un letto di ospedale a curarmi da un cancro, da un tumore al sistema linfatico, e quindi ero nel punto più basso, più buio della mia vita. Un anno fa dove eri? Un anno fa ero appena uscito dal trapianto di midollo osseo e avevo, diciamo, un po' più di speranza di vivere, però di sicuro ero molto molto molto molto debole e non credevo di che sarei mai potuto tornare a giocare a pallavolo, che era la mia vita. Domenica sera dove eri? Ero sul podio dei campioni d'Italia, del massimo campionato di Serie A1, con la squadra più forte che c'è adesso al mondo, e ho giocato la partita da titolare e sono stato anche votato miglior giocatore della finale. Ora ditemi voi se non è la storia più bella dello sport italiano dello sport italiano di quest'anno, e forse non solo di quest'anno. 800 24 00 24, invito a chiamarmi quello che ieri mi voleva regare la macchina, che ripeto, della macchina non me ne frega nulla, però Giacintini è qui. Senti, mi racconti come hai vissuto la settimana prima della partita? Sì, certo, l'ho vissuta in maniera molto molto molto strana, difficile. Domenica ho avuto il messaggio di Rafa, che purtroppo non ce la faceva perché aveva fatto la radiografia, quindi la frattura, aveva evidenziato la frattura, quindi mi ha detto tocca a te. Da quel momento sono cominciate a piombarmi sulla testa migliaia e migliaia di pensieri, tanta pressione, tante difficoltà, diciamo. Ho cercato di estraniarmi il più possibile, anche se tanta gente mi scriveva, mi chiamava, mi mandava messaggi, mi hanno chiamato tanti giornalisti, tutti parlavano di appuntamento col destino, questa è una favola, si concluderà come deve concludersi. Io ho cercato di estraniarmi da questo pensiero, perché mi sono detto sì, Jack, è vero, è una cosa bellissima, se dovesse finire così, tutti vorrebbero che finisse così, anche tu vorresti così, però tu lo devi fare e tu non puoi chiudere gli occhi e sperare che il destino vada come deve andare. Cioè, tu devi farlo, quindi ha detto ti devi concentrare sul concreto, devi cercare di immaginarti che la vita è reale, non è una favola, quindi delle volte purtroppo le cose non vanno come vogliamo e tu devi fare in modo invece che vadano in quell'altra maniera. Quindi ho cercato di concentrarmi molto molto molto sul concreto, anche se non è stato semplice, perché mi sono tornati in mente i mesi della malattia, mi sono tornati in mente tutte le sofferenze patite da me e dalla mia famiglia, e quindi è normale che c'era tanta emozione. La sensazione invece, guardandoti domenica, è che non fosse possibile fermarti. Guarda, io ho avuto una strana sensazione in campo domenica, come dici tu, mi sono sentito veramente spinto. Devo dire che ho avuto una concentrazione incredibile dal primo all'ultimo punto e non mi sono mai scoraggiato, neanche quando a Piacenza giocavo una pallavolo che noi non riuscivamo a arginare. E quindi ho sempre avuto fiducia, ho sempre avuto la concentrazione di pensare una palla alla volta, e ho sentito tanta gente che mi spingeva, tanta gente intorno a me, posso dire tanta gente al mio angolo, ecco, perché secondo me c'era tanta gente che faceva il tifo per me, e io questo l'ho percepito anche da lontano. E quindi è vero, io domenica ero veramente su di giri, avevo veramente tanta forza dentro di me, avrei potuto giocare altre due o tre set a quel livello. Senti, c'è Matteo da Piacenza che scrive, che Piacenza, la squadra che ha perso, che scrive: Jack, sei un eroe, grande Jack, domenica era Trento, ho pianto per te, Giorgio da Treviso. Io non credo che tu sia un eroe, io credo che tu sia un uomo vero in un mondo di bastardi e di carogne, come quello, come tante volte quello dello sport. Io ti ringrazio, guarda, io non credo di essere un eroe, sono contento che la gente veda in me una speranza, veda in me un esempio di qualcosa che può andare bene anche dopo una grande difficoltà. Però io mi sento una persona normalissima, una persona che però quello di cui sono veramente contento di me in questi ultimi anni è che è una persona che, insieme alle persone che gli vogliono bene, insieme a tante cose, a tanti aiuti, non ha avuto la paura di buttarsi con la testa sotto la sabbia, diciamo, davanti a dei problemi grandi e anche a delle difficoltà come quella che è stata l'ultima partita da giocare, perché diciamo che ho trovato la forza per affrontare i problemi, che è una cosa che mi riempie veramente di soddisfazione. Grazie Jack, grazie di tutto, non solo di essere stato con noi. Io vi ringrazio per avermi invitato e spero che ci siano altre occasioni. Ci saranno di sicuro, mio caro. Ciao campione d'Italia, ciao. Ciao, un abbraccio. Grazie. Ciao. Lorenzo Giovanotti. Yeah, my friend. La mattina e do uno sguardo in giro, diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata. Allora, subito dopo l'intervista di Sintini abbiamo avuto in settimana un ospite a sorpresa, un ascoltatore a sorpresa che ci ha chiamato e che noi abbiamo ben volentieri accolto, cioè Massimo Mauro. Ora abbiamo un ospite importante come Massimo Mauro, che saluto e ringrazio. Ciao. Ciao. Non mi pare che ci conosciamo, no? Ci siamo sentiti qualche volta, Massimo. A me piace la tua trasmissione, piace come lo fai. E ho detto, mi chiamano sempre per partecipare, adesso chiamo io. E io perché ti ringrazio. La verità è che ho chiamato io. Sì, hai chiamato tu e per questo sì. Ti ringrazio ancora di più. No, ma non mi devi ringraziare. No, mi aveva colpito il giocatore di pallavolo. Jack Sintina. È o non è la storia più bella dello sport italiano quest'anno? Sì. Ora senza essere troppo melodrammatici, perché no, lui stesso infatti, non lo vuole, senza fare della retorica che a me non piace. No, però mi fa piacere quando un ragazzo così racconta, no? Perché a prescindere che è uno sportivo, però può essere importante per tutte le persone che devono combattere, no? E quindi mi sembrava giusto sottolineare. Sì, no? poi come abbiamo parlato con Gianluca Vialli altre volte, voi due state facendo anche cose importanti in questo settore. Sì, ma ci divertiamo anche. Sì, noi facciamo. Vi divertite anche. Raccogliamo fondi per la ricerca sulla SLA, ma siamo stati furbi in questo caso, perché abbiamo coniugato le nostre passioni, che sono il golf, la musica, no, per fare eventi, ed accogliamo fondi che destiniamo alla ricerca sulla SLA. Beh, non mi sembra un peccato divertirsi facendo un'opera. No, ho detto furbi apposta, no, perché anziché spendere il nostro tempo libero in cazzate, invece abbiamo deciso di fare qualcosa così. E devo dire che 10 anni che con un po' di impegno e tanto divertimento abbiamo raccolto quasi 2.300.000 euro, sì, però, destinati interamente alla ricerca sulla zona. Però vedi che il campo, come dicevo prima, Sintini manda dei messaggi che nessun altro ambiente, il campo non solo da calcio, il campo inteso come sport, manda dei messaggi che nessun altro sa mandare. Beh sì, perché la competizione è tutta positiva, i 90 minuti oppure i 60, insomma, di tutti gli sport, cioè l'evento, e non c'è niente di negativo, esatto, no? La competizione tra gli atleti, che siano donne, uomini, è tutta stupenda, no? È tutto un po' il contorno che a volte lascia un po' a desiderare, perciò è importante che gli atleti raccontino quello che gli capita nella vita. Tutti convocati Magazine. Dunque, così su due piedi abbiamo deciso di istituire un premio, quello dell'argomento più peloso della settimana. È quello naturalmente del razzismo, di cui si è parlato e straparlato a partire dalla notte della scorsa domenica e da quei budi dei tifosi della Roma San Siro a Balotelli, della partita sospesa e di tutte queste cose che hanno ragione di essere, naturalmente, perché continuiamo a vivere in un posto in cui il confine con la civiltà è davvero borderline, però mi sembrano a questo punto quasi un pochino strumentalizzate. Questa naturalmente è una mia opinione personale. Ne abbiamo parlato con Furio Fedele, inviato del Corriere dello Sport. Allegri dice: o si sospende la partita o il minuto di sospensione non serve a nulla. Sono abbastanza d'accordo sul fatto che il minuto di sospensione, minuto e mezzo, serva a poco e sia abbastanza demagogico. Sospendere la partita, se consegni a questi cerebrolesi la possibilità, oltre che di ferire una partita, addirittura di ucciderla, è un po' tanto. Però sai, l'unica volta in cui è stata sospesa una partita il 4 gennaio scorso a Busto Arsizio in amichevole, e poi ci sono state delle conseguenze anche abbastanza ruvide, perché è stata aperta un'inchiesta, si è arrivati al processo penale. Evidentemente l'esempio deve essere prima o poi dato. Certo, un conto è un amichevole a Busto Arsizio, esatto, per far divertire fra l'altro 2000 persone, e di questi molti erano dei bambini che avevano la possibilità di vedere il Milan molto da vicino. Un conto è sospendere una partita di un campionato sempre molto complicato da far scorrere verso la fine per tanti problemi legati al calendario, anche alla vicinanza delle varie partite e soprattutto anche a questioni squisitamente agonistiche, basti pensare alla sovrapposizione di certi appuntamenti, al fatto che c'è chi gioca prima e c'è chi gioca dopo. Certo. Una cosa è certa, va debellata come è stata debellata la violenza negli stadi, adesso la polizia non è più negli stadi, non succede più nulla, però c'è la certezza della pena. Secondo me in questo paese ci sono probabilmente, anzi sicuramente la legge, ma ci deve essere la certezza della pena. Certo. Se vieni condannato non devono esserci sconti, non ci devono essere amnistie, sto parlando in generale. Ma chiaro, questo è un discorso generale. La certezza della pena, si stabilisce una pena e tu stai dentro in prigione o comunque ci sono altri modi, ci sono i domiciliari, ci sono i servizi sociali, però la pena deve essere scontata per qualsiasi tipo di reato. Questo e non ci devono essere né sconti né migliorie per nessuno. Questo è chiaro. Senti Furio, però ha ragione anche Gullit quando dice vabbè, ma adesso non fate un sacco di casino, ma voi questo problema ce l'avete sempre avuto tra nord e sud. Io ricordo anche dei versi, degli ululati tipo quelli di ieri sera nei confronti di Gullit, e stiamo parlando della fine degli anni Ottanta. Io ricordo che quell'odioso ritornello "non esistono negri italiani" arriva dagli anni 70 e non solo dai campi di calcio. Ma per fortuna adesso c'è maggiore sensibilità. Io trovo che era sbagliato allora, non adesso. Cioè non è perché adesso improvvisamente e fortunatamente ci si rende conto della gravità della situazione che io non capisco Gullit, onestamente, e chi la pensa come lui. C'erano anche prima, e con questo allora bisogna lasciare che una cosa così marcia, così nauseabonda vada avanti, perché c'è sempre stata. No, lui dice perché vi siete svegliati solo adesso? Perché evidentemente prima c'era meno sensibilità, c'erano anche meno mezzi, c'era anche meno propagazione. Una volta, sai, non c'era tutto questo tam tam giusto e giustificato che viene anche alimentato dalla tecnologia, perché adesso qualsiasi cosa succeda per fortuna viene evidenziata nel bene, ma soprattutto nel male. Io sono favorevole assolutamente alle telecamere, ai microfoni, anche se vuoi non ti dico alla violazione della privacy, ma al ridimensionamento di una certa privacy. Adesso un'opinione molto più, insomma, molto più, un'opinione autorevole, quella di Lilian Thuram. Presentazioni sono inutili, Dario Ricci lo ha intervistato, domani sentirete l'intervista integrale in A Bordo Campo, argomento ovviamente lo stesso, razzismo. Thuram: bisogna congratulare l'arbitro, penso che questo è molto importante, perché gli arbitri hanno un ruolo molto importante, perché credo che dà un messaggio molto positivo, perché credo che la storia ha dimostrato che da tutti i tempi c'è persone che hanno idea sbagliata, però la maggioria non fa niente per cambiare, e io credo che il mondo del calcio deve dare l'esempio. Ecco, ti senti di mandare un messaggio a Mario Balotelli? Mario Balotelli deve capire che non deve soffrire di questo, perché sai che al finale il razzismo è una cosa molto difficile, perché qualche volta le persone sorridono e non capiscono che Mario Balotelli, che è italiano, che è cresciuto in Italia e che forse da quando è piccolo lo aggrediscono sul collo della sua pelle, può essere qualcosa di molto violente. Parliamo di calcio giocato, Lilian. Ti piace la Juventus del tuo ex compagno Antonio Conte e pensi possa vincere in Europa il prossimo anno? Mi piace la squadra della Juve. Mi sembra che Antonio è un grande allenatore, perché già che quando era giocatore già era una persona molto, molto brava tatticamente, e soprattutto aveva sempre questa voglia di fare le cose per bene, sul campo e fuori campo. Aveva questo atteggiamento di leader, un leader che non parlava poco, però che dava la strada da seguire, e penso che fa la stessa cosa con la sua squadra. Per vincere il Champions League, secondo me è sempre difficile di dire si sarà il prossimo anno, però diciamo che le cose sono difficili, perché credo che per il momento le squadre tedesca, anche inglese, forse spagnola, hanno un po' di vantaggio sulle squadre italiane, credo, adesso, perché i più grandi campioni non scelgono l'Italia, per esempio, per il momento. Allora è sempre difficile da dire. Di questa questione Mario Balotelli, protagonista diretto, ha parlato in settimana con la CNN, parole dure, importanti. Lascio il campo se sento di nuovo questi cori. Balotelli. I always said that if it happened in the stadium, I just do like if nobody say nothing and I don't care. But this time, I think I changed my mind a little bit and if it's gonna happen one more time, I'm gonna leave the pitch. Ha risposto anche il presidente degli arbitri, Marcello Nicchi, dicendo: "Ma se Balotelli lascia il campo, il Milan gioca in 10". Mi sembra una risposta abbastanza opportuna quella del numero uno della classe arbitrale, così come mi sembrano opportune le parole di Zeman sempre su questa storia. Il discorso su Balotelli è un po' strano, nel senso che non è Balotelli perché è Balotelli di colore diverso, è Balotelli perché attira con le sue, quindi lei del partito, i suoi atteggiamenti, qualche cosa, ma se a tutti fischiano su tutti i stadi lo offendono, per me è la stessa cosa nel calcio. Magari purtroppo oggi si gioca su colore della pelle, che per me non è così, nel senso altri giocatori del Milan non gli fanno niente. È comportamento, io penso che se uno si comporta bene non ci succede niente. In questo caso devo dire, sono d'accordo al 114% con le parole di Zeman. Ma sempre su questo, insomma, c'è un giornalista italiano che sa tutto delle cose del Milan, che segue il Milan da moltissimo tempo, che è una penna importante e prestigiosa. Alberto Costa, inviato del Corriere della Sera, questa è la sua opinione. Un'ultima cosa secca, Alberto, una tua interpretazione autentica sulla storia di Balotelli, e lascio il campo se sento altre... è una questione pelosa, se sento altri insulti razzisti. Stamattina Nicchi ha detto: se lascia il campo, benissimo, stanno in 10. No, dunque, io trovo che Balotelli non sia molto diplomatico, chi lo consiglia. Sì, io credo che debba anche darsi una calmata a lui, Boateng, eccetera. Esatto, cioè, il Milan è un club abituato ad avere, parliamo solo degli ultimi 10 anni, ha avuto gente come Rui Costa, Ronaldinho, Shevchenko, sì, Kakà, e tutta gente che in campo non trasformava la partita in una lotta contro il, sì, mondo intero. Esatto, bravo. Quello che dico io, purtroppo gli spalti dei nostri stadi si stanno sempre più riempiendo di imbecilli e di idioti. Voglio dire, se a un imbecille e un idiota dice: appena mi fai bu, io me ne vado al campo, l'imbecille e l'idiota lo fa due volte, però tu ti ricordi anche che lo facevano a Gullit, lo facevano a Rijkaard in altri tempi. Ma scusa, io poi chiudo, se Balotelli avesse detto: se mi cantano la Vispa Teresa dagli spalti, io lascio il campo, stai pur sicuro che dalla prossima partita tutte le tifoserie, certo, avversarie si mettono a recitare la filastrocca della Vispa Teresa. Tutti convocati, Magazine. Dopo l'argomento più peloso della settimana, per ripigliarci un po', ci stava un po' di musica, Jessie J. Allora, non a caso, perché in settimana abbiamo trattato anche un altro argomento, come dicevo prima, che riprenderemo nei prossimi giorni, io credo nelle prossime settimane, un argomento che invece a me diverte molto, che è quello delle panchine e del domino che si è scatenato a livello europeo con così tanti addì, con così tante storie. L'unico grande club che ha risolto tutti in un attimo è stato il Manchester United. Come sapete, l'addio di Alex Ferguson dopo quasi 27 anni, praticamente il giorno dopo annunciato il nuovo allenatore, giusto per tagliare la testa al toro, e alle tante chiacchiere che volevano Mourinho su quella panchina che lui ha sempre sognato, e invece no, ci va un altro scozzese, David Moyes, strappato all'Everton. Curiosamente in settimana c'è stata, sempre per quanto riguarda lo United, la notizia dell'addio di un altro pezzo storico come David Beckham, che a 38 ha detto vabbè, mi fermo qui, forse è il caso. Però torniamo al domino, perché in questi giorni, in queste ore, vale tutto. Anche i bookmakers si sono scatenati facendo le loro quote sulle prossime panchine europee. Mancini, ad esempio, Roberto Mancini è stato, come sapete, liquidato senza troppe cerimonie dal Manchester City, e adesso insomma non chiude nessuna porta. A Napoli c'è il sole, una bella città, un bravo allenatore, una grande squadra, e io sono qua per cose personali che non c'entrano niente. Napoli è un allenatore bravissimo, non bravo. Forza Napoli, vabbè, sempre puoi dire. Visto quanto affetto per lei, Mancini. Mi fa piacere. Un buon motivo eventualmente per un giorno per allenare il Napoli. Non lo so, nella vita non si sa mai quando uno fa l'allenatore, ma ripeto, non sono qua per questo. Ha o aveva? Mancini dice: Napoli ha un allenatore molto bravo, forse aveva un allenatore molto bravo, cioè Mazzarri, che ancora non ha sciolto i nodi sul suo futuro. Domani c'è l'ultima giornata, quella delle infradito e del costume sotto i pantaloncini, due le partite che contano, come sapete, in serata, quella del Milan e quella della Fiorentina. Tutto il resto è mancia, tutto il resto è attesa della spiaggia. Non è solo lo United, per la verità, ad aver risolto la questione dell'allenatore alla svelta. Una questione nata e poi subito sciolta è stata quella della permanenza di Antonio Conte, con sempre più poteri, secondo me, sulla panchina della Juventus. Sentiamolo. Due cose: abbiamo pianificato il 13-14. Sì, per continuare a costruire. Grazie, signori. E dunque, come sapete, Conte resta, la Juventus verrà rifondato, rifatto in buona parte, si parla di 7-8 nuovi acquisti, si parla di partenze eccellenti, tra cui Vucinic, Giovincoli, Steiner, oltre a Matri e Quagliarella, e anche su questo fronte sarà un'estate divertente. Walter Mazzarri, dicevamo prima, Walter Mazzarri è ancora in ballo, c'è chi dice Roma, ad esempio per i bookmakers è la soluzione più accreditata, ma c'è chi di nuovo tira fuori la storia dell'Inter, che si intreccia con quella di Stramaccioni, che invece potrebbe o dovrebbe, o si dice, o Moratti dice, essere riconfermato al 100%. Ebbene, di Mazzarri abbiamo parlato con Carlo Pallavicino, procuratore molto noto, toscano, non livornese ma fiorentino come Mazzarri, e allora risentiamo questa chiacchierata. Più di così Mazzarri al Napoli non può, dal Napoli non può spremere. Questo era un vecchio adagio di Italo Allodi, che, come ben sai, inventò il suo percorso allenatori e disse: andate via dalle società nel momento di massimo fulgore. E Mourinho avrebbe detto che non era Pirla. Esatto, esatto. E questo mi sembra accadere anche adesso, e vediamo che queste sono le due settimane di ogni anno riservate agli allenatori, poi per fortuna ritornano a fare il loro mestiere, perché sono un po' stucchevoli tutte queste mettersi alla finestra. In fondo gli allenatori son belli da vedere quando parlano di calcio, parlano di tattica, fanno il loro mestiere, vederli un po' alla fine mettersi alla finestra insomma non è tanto elegante, anche perché poi voglio le garanzie, e i tifosi che garanzie possono chiedere invece? Quelle sono di restare tifosi a vita della propria squadra. In fondo hai fatto una cavalcata un anno intero con un gruppo di giocatori, un'ora dopo che raggiungi l'obiettivo, il traguardo, che comunque si chiude la stagione, è come se te ti mettessi su un piedistallo diverso rispetto agli altri. E questo oggettivamente a livello sportivo non è bellissimo. Quando poi si parla anche di soldi, che bisogna investire più soldi, ci vogliono investimenti, in un momento come questo mi sembra che è come se ci si dimenticasse la realtà. Sì, poi in parte bisogna distinguere, perché Mazzarri si è messo alla finestra e l'ha fatto anche l'anno scorso, mentre Allegri verso la finestra ci è stato spinto. Sì, esatto. Beh, diciamo che Mazzarri in questo è veramente un maestro, perché ogni anno che abbia il contratto, non lo abbia, riesce ed è riuscito in questo modo a arrivare ad avere gli ingaggi milionari, meritatissimi, perché lui è partito da Cireale, guadagnava veramente qualche decina di migliaia di euro, e anno dopo anno ha sempre raddoppiato, un po' con questa strategia che infatti non a caso a Napoli c'è qualcuno un po' stanco, al di là del grande rispetto per questo allenatore, però effettivamente questo ogni anno mettersi un po' la filtra, alla fine stanca un po'. Chiudiamo con un'altra storia di allenatori che non riguarda il presente ma il passato. Come sapete, in settimana il Chelsea ha vinto l'Europa League. A proposito, Benitez vince e va, come era successo con l'Inter. Però l'altra storia è quella di quelli che hanno perso, cioè del Benfica, e di una maledizione, di un anatema che dopo 50 anni resiste ancora. Ve lo raccontiamo. Intanto vi saluto con Franco Piantanini, autore di questo programma, con Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo lunedì con tutti i convocati. Ciao. Per un pugno di dollari, 4.000 dannati luridi dollari, è un anatema che dura da 50 anni. Avremmo potuto chiamare Mago Telma, ma era meglio di no, oggi, per raccontare questa storia dopo aver visto la finale di Europa League di ieri sera, per ricordare l'anatema di Béla Guttmann. 1962, il Benfica vince la finale di Champions League. Guttmann si presenta agli uffici del Benfica, che era Benfica di Eusebio naturalmente, e chiede per il rinnovo del contratto 4.000 dollari in più. Niente, non glieli danno, dicono che costa troppo e lo mandano via, e come hanno fatto con Di Matteo e con Benitez, curiosamente, ma loro con un destino diverso. Non so se anche loro abbiano lanciato un anatema di questo tipo. Allora, andando via, Guttmann punta il dito e dice: per 100 anni non vincerete più una coppa, voi del Benfica. Morale: 7 finali perse, compresa quella di ieri sera, tra Coppa dei Campioni, Coppa UEFA, Europa League naturalmente, 2-1 con il Chelsea. Pensate che nel 90, narra sempre la leggenda, dopo aver perso a Vienna 1-0 con il Milan, gol di Rijkaard, i milanisti se lo ricorderanno, proprio Eusebio, narra la leggenda, andò sulla tomba di Guttmann pregandolo, supplicandolo di ritirare questa maledizione. Niente da fare. Nell'area di rigore anche Cahill, arriva Ivanovic, la prende lui! La prende Ivanovic, segna il gol numero 2, il numero 2 del Chelsea, è il gol che vale la Coppa, è il gol della finale, il Chelsea vince, il Benfica perde. Tutti convocati.